internet. Cioè, sono stato fortunato che sembrava San Nicola, questa radio aveva alcune piccolezze da mettere a posto, ma è nuova ricetta questa, ero che sono molto, molto soddisfatti. L'avevo sentita, come si chiamava quel radioamatore, ce l'ho mandata anche le foto, mi sai, che quello che ha tante radio, bellissimi apparati, bellissimi vintage, e poi c'è anche una stazione bellissima, il radioamatore quello. E ce l'aveva lui, allora quindi mi sono innamorato di questa radio, mi sono detto, l'avevo, devo fare tutti i costi, e quindi sono stato abbastanza fortunato, dai, quindi. Ciao Roberto, Napoli ha vinto la zero, ciao a tutti, chiudo. Stavo guardando, avevo il colpo di testa di quello di me, poi hanno annullato quell'altro gol. Infatti io quando l'ho visto, questo è il primo gol, ho detto questo è in fuorigioco. Purtroppo è stato anche sfortunato, il Torino ha fatto una parata con lo Spina, cacchio, se no non so come andava a finire. Comunque, adesso Napoli lo vediamo dalla settimana prossima, quando inizia a incontrare squadre forti, e vediamo un po' di cosa è capace. Adesso stasera ci guardiamo la Juve. Comunque, ben sentito Giulio, dai, vai Claudio per Giulio. Sì, Pacelle, ciao Giulio, buonasera, ben ascoltato, sì, ti ricevo abbastanza bene, sì, Santiago 7, Radio Super 5, sì, mi fa sempre piacere che ogni tanto ti affacci, riprendi. No dai, devo scendere per la cena, ci sentiamo, ciao Claudio, salutoni, ci sentiamo prossimamente, dai, è appena finita la partita, adesso devo scendere per la cena. Ciao Roberto, ciao Claudio, e ciao Antonio, mi sembra che ci sia anche Antonio. Ci sentiamo eventualmente domani se coincide. Ciao a tutti, chiudo. Okay, ciao Giulio, ben sentito. No, Antonio è andato a fare cosa? Qualcosa, cioè, prima io, Urano, che non ho capito, io non mi confondo sempre tra Uranio e Urano, io lo chiamo Francesco. Vediamo se c'è ancora Francesco per salutare a Giulio. Nulla, vai Claudio per Giulio. Sì, 5 Stelle, dai, mi ha fatto piacere Giulio, ti auguro buona serata, una buona carica quando la fai, dai, ci sentiamo alle prossime, riprendi Uranio. Forse ci ha lontanato. E quello Nicola c'aveva anche un'altra radio, quella che ti aveva portato giù, che cos'era grossa? E quale, Roberto? Di quelle, diciamo, serie, dai. Ma vintage ti stai riferendo tu? Oh no, come quella grande che vi avete comprato, parlo. No, di quella grande ci ho soltanto, allora, il 1021, poi mi aveva portato il 1000 la Iaese, e poi ce l'abbiamo tornato, però così quello non voleva più soldi, non voleva portarlo. E sarà per questo 1021, è un po' vissuta come radio, però bellina, è appena quella più grande del 757, c'ha l'illuminazione del coso, la sintonia continua su questa radio, già non so se te ne presente, riprendi. Ma l'FT1000 è più grande del 1021? In fondo sì, o no, non credo, Roberto, se la giocano di larghezza e più o meno era così quella, però quella lo fa l'illuminazione arancione, quella che mi aveva portato, riprendi. Ah, se guardo su internet, non c'ho presente il 1021 com'è. Questo è il 1021, senti il 1021, invece l'altro che mi aveva prestato era FT1000, però non l'avevo mai usato perché non volevo farlo trasmettere, perché l'aveva portato per fare il microfono a un MD1P8, gli aveva adattato e proprio gli aveva messo a posto, gliela aveva perché aveva potente il microfono e poi si è passata e se l'ha ripresa, e capisco, e mi ha dato un sacco di radio questo, gli ha dato, però sempre un giro con il cambio, capisco, perché anche a casa sua non è che ci rientra spesso, capisco, e ho fatto un sacco di radio perché compra blocco anche da internet, e sta sempre comprando, poi se ne disfa e capisco, sono stato fortunato che ho avuto, vedi, questo colpo di due perché mi piaceva, siccome ce l'aveva il radioamatore, quello che ci ha fatto a Sudici, Marco Scorpio, che ce l'aveva fatto sentire, mi ha mandato anche le foto, che aveva modulato mio padre, e mi era piaciuta questa radio, questa che sono io è la prima versione, proprio, sono stato abbastanza fortunato, riprendi. È quello che sto dicendo io, c'ha due doppio, come si chiama, doppio trasmettitore, c'ha due trasmettitori separati, c'ha un monopolo grande e un altro più piccolo, è come che c'hai due apparecchi insieme. Sì, Quattelle, sì, confermo, non è quello lì, ecco, proprio, non l'avevo fatto vedere, diciamo, una volta l'avevo visto in visita, l'avevo messo in questo, perché non avevo il doppio account, sì, l'avevo messa, ma appunto di quella radio, però di quelle radio lì non è che mi piace molto pubblicare il posto, capito, perché già lo sai il motivo, e capito, sì, comunque quella che mi stai dicendo è il 1021 della IAE, quella radio lì in pratica, riprendi. No, una grande radio, una bellissima radio, è quasi uguale a 1020, non so se sia più recente uno o l'altro, però sono molto simili, quello con il coso, c'è un bello strumento, c'è una radio completa, quella tira fuori 200 watt quella radio. Sì, confermo, 200 watt, però non l'ho mai messa a manetta, infatti non c'è neanche bisogno quando la attacco. finali, quelle così, invece quando la attacchi a un'alfa lima e capito, un'alfa lima valvole più tranquillo, insomma, quindi. Guarda, guardandole così sembrano uguali, anche la tastiera, i tastini sotto, sembrano identiche le radio, non so cosa abbiano fatto, se ci hanno aggiunto qualcosa, però sono, i frontali sono uguali. Sì, sì, quelle, sì, no, perché sai cosa, l'abbiamo preso, siccome c'era piaciuta l'altra, e l'altra però non voleva più soldi, l'altra abbiamo sparato 2000 euro, e troppo 2000 euro, capito, questa l'abbiamo pagata un qualcosina in meno, e se qui è piaciuta, però va bene, fa la figura sua. Io metto lo stesso microfono, quindi lo potete conoscere perché non avevo altro, e ad esempio non mettilo più osso, già adattato, io ho detto che va bene, ho fatto due collegamenti, però lo stesso è che la uso dopo perché di fatto non mi ricordo mi presta l'altra, il 757, ma adesso non lo so più aggiornando quello che l'ho dentro, quindi ad altre cose, quindi è un'altra convertibile, se ne è capito qual è, lo nominiamo quello. Che è quella che va abbastanza bene, quella che mi devo prendere il microfono esterno con la colonnina sua originale, esterno che è solo di stare con questa cornetta attaccata alle orecchie e mi rinnovo questa tappona, capito? Perché se non si sente nulla, se non si mette nell'orecchio, si sente appena appena, ma mi piace proprio che si senta appena la radio, soprattutto quando ero in sessione, con la sessione non me ne frega nulla, mi posso anche modulare con quella roba attaccata all'orecchio, ma è fastidiosa, roba, è pure una bella radio, è anche un bel valore, c'ha cioè, quella radio lì, è, capito, sono belle, belle cose, mi sento quella che mi va tutti, se non la nominiamo, è capito, è quella bella, è quella che devo mettere il suo USO in quella lì, che non lo devo procurare, mi scola, è capito, è quella che è una bella linea da connessione, quindi. Sì, sì, sì. Ok, no, no, quella che ti hai preso una grande radio, all'epoca era il top di quella marca che hai nominato tu, una grandissima radio. Non la conosco nel senso fisicamente perché non l'ho mai vista, l'ho vista solo sui giornali, sulle riviste, però è una radio che all'epoca costava una marca di soldi, quella lì. Sì, sì, questa è, questa proposta da poco, un ricevitore della Geloso a poco prezzo, però non mi interessava, perché capito hai, che non è che nascono nell'oro, si può comprare apparati, quello non si vuole proprio prendere, perché si tratta di queste cose di radioamatore, quello si vuole vendere in su, invece i barattini di questi vintage, di questi canali, queste cose qui, se mi capita qualcosa che se ne vuole fare, te la regala pure, perché è molto generoso, e anche di buon cuore, anche mi ha lasciato gli apparati, però se quindi la radioamatore, se tu ti fa pagare, quindi se tu mi dici trovami questa cosa, te la trova, però ti farà un sacco di soldi, perché poi è fissato, infatti c'è anche la 24 volt nel cambio, e se mi porta anche al lavoro, non so che porta, ma è fissato con queste cose, infatti per colpa anche di queste cose ha avuto anche problemi in famiglia, capito, con la moglie, ed è molto fissato, molto appassionato di queste cose da radioamatore, e non è neanche, come si chiama, è neanche radioamatore, capito, molto appassionato, e usa il 27, mi è scritto anche allo stesso Radio Club che sono scritto io, capito, è molto appassionato di questa cosa, riprendi. Io non ho avuto tempo di fare, vabbè, c'ho tante cose da fare, non ho proprio avuto tempo di iscrivermi a quella di Mazzala, quella lì sta dicendo tu. Sì, sì, questa, lei un giorno lo facciamo assieme, Dardo, ci organizziamo, se lo faccio io, lo facciamo assieme, meno appena hai un momento libero, ci mettiamo d'accordo, ci facciamo tutto, facciamo, capito, perché ti vuoi tu proprio quando te lo faccio, capito, perché è una cosa che riguarda te, capito, hai, perché ti devono fare anche le tue stelle, se non ti ho spiegato. Ne chiudiamo saggio e un giorno ci mettiamo d'accordo e se lo faccio fare anche a te questa cosa, tu non è una cosa difficilissima, riprendi? Sì, sì, una domenica, un giorno magari che per dire che c'è fermi, che non si fa niente, magari mi avvicino altri 5 minuti e se c'hai tempo me lo fai tu. Sì, sì, quelle, perché vedi che tu cosa hai fatto di diretto di quel microfono, che stai cercando il microfono proprio per copiare i collegamenti. Come questo, quello con lo spinotto mi ha detto, come questo che sto usando io adesso, come è perché la vedi, te lo vedi guardare, siccome ce n'è un altro, però si deve copiare i collegamenti per metterlo a posto, che non lo so cosa deve fare, capito, ma l'aveva detto, magari se riesci a trovarlo, magari se non ce l'hai ancora, magari ci mettiamo d'accordo quando vieni, magari per quella cosa lì ti faccio anche questa cosa qui, facciamo anche noi, non c'è problema, è come va bene a te, riprendi. Sì, sì, assolutamente, guarda, ci credi, non ho neanche cercato, non... poi c'è stato quel problema, quel lutto, stavo pensando ad altre cose, io adesso sono qualche giorno, sto accendendo la radio proprio per distrarmi un pochettino, sinceramente non ho avuto tempo di fare niente, però ho promesso che quando ho 5 minuti lo cerco, quel microfono te lo porto io e magari con due cose facciamo, prendiamo due piccioni con una fava, come si dice. Sì, sì, è così, quindi mi metto d'accordo con un sola e magari se è libero in sola, lo faccio passare proprio nel giorno che è diritto, così te lo faccio anche conoscere, che ci sarebbe tanto, gli avevo parlato di te, li avevo, e volevo farne la conoscenza, capito? Perché vedi, cosa, perché a te piacciono tutte queste cose che piacciono a lui, insomma te lo volevo fare conoscere, e adesso mi, non appena tu mi dai conferma, conosci di tutti, le dico se è libero a passare proprio per quella determinata giornata, insomma, e poi così lo conosci anche tu e ci mettiamo per accordo su questa cosa, capito, hai Robert Mari, perché tanto lui sta sempre smerciando di questi apparati, magari se c'è qualcosa che ti interessa, tu metti d'accordo con lui, riprendi. Sì, sì, ben volentieri, magari un sabato pomeriggio o una domenica pomeriggio, magari se per caso non devo andare da nessuna parte, perché molte volte, a parte oggi che proprio non ho fatto niente, oggi stamattina sono uscito un pochettino, sono andato con un'amica mia e poi poi sono rientrato, però era una bella giornata per uscire, però poi non sono andato da nessuna parte, non po' stanco, mi sono riposato un pochettino, poi ho acceso la radio, verso le 6:30 ho acceso la radio, ho detto dai, mi faccio un'oretta, invece dalle 6:30 sono le 8. È un quarto, quasi un'ora e mezzo abbondante di cose, di comunicazione, vabbè, ma sempre finché c'è divertimento e piacere va sempre bene. Ok, vediamo un attimino di bianco se c'è qualcuno, se no rientri tu. Davanti sul 10, vai a te Claudio. Sì, 5 stelle, vabbè, capito, hai coso, il microfono mi stavo sistemando stasera, lo comprando questo sandwich dell'SPE, però secondo la versione magari che tu quella finotto, c'è una versione diversa, capito, perché mi hanno fatto un'altra versione che si chiama 200X di questo microfono, magari proprio quello che tu magari è quella versione lì, capito, infatti qua ne ha un altro, però è diverso da questo, quello smontato, infatti voleva vedere quello che tu a vedere copiare i collegamenti, se c'è qualcuno da mettere a posto per il sistema, perché anche questo che tu usavi io non andava, capito, ma l'ha rifatto tutto da zero, in pratica, perché questo me l'aveva dato Barbiero, me l'aveva, capito, e me l'ha tutto messo a posto, ma gli ho messo anche la capsula, e stasera mi ha fatto quei cosi che mi rende tu col bottone, mi ha messo la capsula perché era vuoto, e cosa faceva? Quando parlavo si attirava... C'è sempre quella solita di quel tipo di Reggio Calabria? Sì, 5 stelle, sì, anche lui una mi si è bruciata, ha fatto una modifica, sì, questa sopra la testa, ci sono anche altre modifiche diverse, perché la roba lì che si sente di più rossa, però la uso poco in lui, la sto pensato usando solo per vedere se per allineare qualche apparato in trasmissione, perché a volte non so perché il primo è stato attaccato, a volte non mi viene attaccare la radio a fare ascolto, mi attacco quella, capito? Sì, ma molto molto bene, mi ascolto gli aerei, queste cose qua, è molto bella, questa la prima volta che c'è un sacco da divertirsi quando c'hai quella roba lì attaccata al computer, perché non devi neanche accendere la radio, perché come vedi un segnale lo trovi subito, non devi stare neanche cercando, te lo ripeti. Sì, sì, no, interessante quella lì. Io ho quella, me l'avevano dato, quello Malachite, non so se lo conosci, che è una specie di pacchetto di sigarette che c'è già il display con tutto quanto, che appare l'analizzatore di spettro, e più c'è la cascata che ti dà i tipi di segnale. Un giocattolino, però diciamo già va abbastanza bene. Sì, sì, quelle, sì, confermo di quello che stai dicendo, sì, quella che hai tu è migliore di quella che io, sì, dai, perché costa anche di più, Robert, sì, l'ho trovata, mi pare che costa 50 euro a comprarla, quella senti più cose, riesce più sensibile di ricezione, sì, si sentono anche più cose, è migliore quella che tu, Robert, però io quelli quelle mie da 10 euro, quelle sono, che mi ho preso dalla Cina, una l'ho presa, io volevo fare una modifica tramite saldatura. Che male, capito, io ho bruciato uno di quei turni c'era qualcuno che stava mettendo musica quando parlavi tu. Avanti, chi è? Mi ha messo la canzone Funky Town, pensavo che fosse un telefonino, invece qualcuno si è divertito. Ma quella che c'ho io, lo sai cos'è il problema? Che è tutto touchscreen, non è una chiavetta, è un tipo una scatolettina di sigarette, un pochettino più piccola, dai, e c'è un display e ci ti appare tutta la frequenza. Per spostarti di frequenza, i decimali, il coso, devi toccare con le dita oppure devi avere uno di quei pennini sensibili che si usano per i touchscreen. Però sinceramente non l'ho provato ad attaccare al computer, non so neanche se si può attaccare al computer per vederla un po' meglio. Mi ha capito quello che sto dicendo io, ho scritto Malachite. Sì, 5 stelle, mi dovresti mandare qualche foto in privato, dunque su WhatsApp, me la guardo, poi faccio le mie ricerche, ti dico che con sia collega, poi quando me la studio, poi il computer e la vediamo assieme, quando vieni personalmente questa cosa ti faccio anche questa cosa qui e la proviamo, anche perché sono curioso io di vederla, magari se ne vale la pena me la compro pure io, una roba del genere, così non so quella economica. Quella che io ricevo abbastanza bene, non è vita, ricevo le radio della Corsica, rompe quelle alta frequenza, Corsa FM, poi io ne ricevo una, vabbè, che trasmettono tanto su Vegas, che trasmettono quella musica classica, capito, hai, è sempre da Iaccio, dalla zona da Iaccio, ricevo anche le radio dell'est, insomma, e riesco a riceverle anche adesso, con la propagazione, tutto l'anno, in pratica, con questa antenna che sto usando, forse perché c'ho una buona posizione, però la ricezione della chiavetta vuol dire molto, perché se ho provato a riceverle con un coso, con i classici paupelli, quindi VHS, e non sento niente, con cui li riprendi. Sì, sì, va bene, che con la collina di San Reggio che ti attenua tutti i segnali di Monteoro, perché a 88 c'è radiolina, è abbastanza forte, c'ha a fare 6 kW, per cui qua non riesce a entrare quella che sta dicendo, tu entra soltanto Nostalgia e poi 97.6, Corsa FM, mi sembra che ci sia, solo due ne prendo io dalla Corsica, gli altri segnali sono tutti coperti dalle stazioni broadcasting, quelle nazionali che ci sono qua, o le private. Tu probabilmente c'è attenuato Monteoro, riescono a incanalarsi in quel canale di Scala di Gioca, dietro Scala di Gioca, per quello che le prendi. Buon per te, dai, è divertente. Io infatti sono sempre appassionato di ascoltare queste radio particolari da lontano, però qua c'è un sacco di disturbo di questi segnali forti, perché Monteoro ce l'ho in vista ottica, io le vedo le antenne, per cui è già troppo che riesco a prendere, però le prendo con quel ricevitore professionale, con l'ICF 7000, devo mettere filtro, ma si sente poco e niente, mentre con quello là grosso, se ti ricordi te l'ho fatto vedere, con quello le ricevo bene tutto l'anno. Sì, sì, me l'avevi fatto vedere, anche quelli quei ricevitori che c'è tu, io sono sì, fortunato, forse perché ho una buona posizione, non vedo il microfono rispetto a te, capite bene per quello, perché ricevo tutto con l'antenna del paracchino, con questa della Sirio, che anche scadente, questa mi tornato, perché non è come una Mantova 5, capito? E ricevo quelle Corsa FM, Radio Nostalgia, e poi ne ricevo una che trasmette, mi sa si chiama Radio Music France, una cosa del genere, sempre da Iaccio, che ho fatto delle ricerche, ho preso le frequenze tramite internet, non so, e poi alta frequenza, che c'è la frequenza 103 MHz, allora 103 e 200 MHz è quella, si sente bassina, però la sento, insomma, e poi c'è un'altra che, come si dice, che trasmette, mi pare, 107 MHz, o una roba del genere, sempre che danno delle canzoni in lingua corsa, ricevo anche quella, e adesso non mi ricordo il nome di quella, però sempre dalla zona di Aiaccio, e capito, è quella alta frequenza, però è la più bassina che riesco a sentire, riprendi? Sì, no, se mi ricordo, quando vengo da te ti porto l'elenco delle frequenze dell'acustica, della zona nostra, diciamo, di Aiaccio, c'ho frequenza, punto di trasmissione, potenza, c'è tutto, c'ho tutti i particolari dall'88 al 108, tutte le radio che ci sono, che trasmettono da Aiaccio in poi, dai, perché ce ne sono anche a Portovecchio, un paio di stazioni, ma le presenze hanno potenze molto, ma molto basse, la più potente, stiamo parlando di un kilowatt, ci sono radio anche da 200 watt, per dire, e tirarle fuori è una grande difficoltà. Purtroppo molte di quelle frequenze sono coperte da stazioni adiacenti, per dire, da noi, perché ce ne sono quelle radio, c'è Energy, poi c'è Skyrock, ce ne sono una ventina, anche di più di radio, che teoricamente si potrebbero ricevere, però molte sono su frequenze già occupate da noi, mentre 93 c'è cosa, Nostalgia ed è libera, e 97.600 qua è libera. Tu ce la fai ricevere, vabbè, penso di sì, 98 da Limara, Radio del Golfo, penso che la ricevi, se ricevi 97 STC ti c'eri anche 98 da Limbara. Sì, 5 stelle tutte, vabbè, quelle erano tra l'altro, me le ricevo tutte, sì, forse la scala hanno anche delle canzoni, anche in lingua loro, e sembra tipo la lingua che, allora il dialetto che hanno a Sassa è mischiato con quello di Soros, mischiato con un po' di Gallura, vabbè, una specie di dialetto così, e cantano delle canzoni in dialetto loro, ma molto quelle. Se me li ascolto un pomeriggio, ogni tanto quando sto facendo dei lavori sulle radio e con le frequenze, poi ne ricevo un'altra che trasmette, mi pare il 96-97 MHz, però è molto bassina, mi sa che è una radio della Corsica, sempre della zona del Ghiaiaccio, e che questa però trasmette notizie in francese, o pubblicità in francese, insomma, perché non sono se sono parlano in lingua francese, e ne ricevo molte, e sono lì, se come facile proviamo tutte, bene, tutte le frequenze, capito? Perché sono anche molto appassionato di queste cose, di queste radio mie FM, a volte me li ascolto in propagazione, a volte riesco a sentire anche quelle dell'estero, però non so da che parte, cioè di che continente sono, capito? Perché in estate le sento molto in propagazione che su quelle frequenze lì e di queste radio, quindi. Allora, quella sugli 88 MHz che ascolti tu è Musique, si chiama, avete da Iaccio con 5500 watt, poi tu mi hai detto che ascolti a 96 pure. Sì, confermo, sì, allora quella è 88 MHz, è una stazione, sì, radiofonica che trasmette da Iaccio, trasmettono delle canzoni di musica classica, vabbè, capito, tipo Mozart, di queste canzoni così, no, li ascolti ogni tanto che è molto belle, sono rilassanti, e sì, poi ne sento un'altra che la frequenza è 103-200 MHz, che si chiama alta frequenza, la radio della Corsica, così dicono quando l'annunciano, poi danno delle canzoni mischiate, un po' di canzoni italiane e un po' di canzoni in lingua corsa, e poi ci sono i notiziari in lingua loro, ho visto, e poi c'è un'altra, quella Corse FM, che è nella frequenza che siamo distrutti, quella la sento molto forte, e un'altra sempre in 96-97 MHz, quindi. Allora io il 96 non riesco a prenderla, Sherry FM, quella che stai dicendo tu, su 96, qua è libera, a Sassari, però non riesco a prenderla. Veramente quanti watt c'ha questa? Vabbè, c'ha 500 watt, per quello che non riesco a tirarla fuori. Mentre prendo 97-600, Culture ci chiama, che l'hanno applicato notiziari e cose del genere, quella c'ha 5 kW e mezzo. Poi ho visto qualcuno ascoltava cosa, su 98-6, no, come si chiama? Su 98-1 Skyrock, che danno musica internazionale, però qua è coperta, ci ha attaccata Radio del Golfo da Montelimbana, che c'ha un sacco di potenza, per cui me la copre a me. E poi su 93 c'è, come si chiama, Nostalgie, che quella c'è con 6 kW e 3, mi prendete, poi forse prendi 89-600, tu RFM, che quella c'ha bella potenza. Sì, quella è la più forte, Roberto, quella che trasmette musica classica, quella è la più forte che mi arriva dalla zona di Ajaccio. E poi la più bassina è quella che dei notiziari, quella 97-600 che mi ha detto poco fa, quella lì, se non come sentite una canzone, e poi ce n'è un'altra, la stessa che mi arriva forte, quella Corse Nord, come si chiama, quella Radio Nostalgie, quella che non prende 93 MHz, e poi c'è quella alta frequenza che è un po' bassina, che è 103-200 MHz, riprendi. Sì, sì, c'ho tutto l'elenco, io ho scaricato tutto, la posizione, poi se tu entri su NDL Radio, SDR Radio, NL, poi ti dà l'elenco di tutte le radio del mondo, tu ti scrivi nell'Ocator, ti scrivi la zona che vuoi ricevere, per dire metto Sassari, e ti dà l'elenco di tutte le stazioni che trasmettono da Sassari, potenza, poi schiacci sul link, ti dice la posizione, puoi anche ascoltarla in diretta, bellissimo, infatti io quando ho tempo da perdere me lo stampo. Le posizioni quelle più strategiche che mi interessano a me, per vedere a Milano cosa ci sono di radio, c'è tutto l'elenco, ci sono tutte le posizioni e tutte le potenze di trasmissione di queste radio. Quello che mi ha colpito quanto sono salite le potenze, adesso mondo, come si chiama, Ex Mondo Radio 102, radio dimensione suona RDS, esce con 50 kW, stiamo parlando di potenze spaventose e improponibili sino a 10-15 anni fa, prima al massimo una stazione radio ci va con 1 kW, 2 kW e mezzo era arrivata a Mondo Radio quando c'era all'inizio per farsi sentire a lunga distanza, ma adesso quella c'ha 50 kW, ti spulsi da Monte Alvaro 42 kW, la radio della RAI da Lemara esce con 130 kW, stiamo parlando potenza da paura, c'è un inquinamento radioelettrico fuori dal mondo, cioè è allucinante, cioè cose che dice, ma com'è possibile? Poi ci sono la telefonia e cose, per cui tutti questi disturbi QRM altissimo dipendono da queste cose qua. Sì, quelle, sì, stanno uscendo con un portiere di sei giusti tanti, di questa radio, che poi mi ascolto anche molte in un bel corte la notte, di notte mi ascolto sempre Radio Capodistria, che tra quella trasmette mi pare allora era 1170 megahertz, dunque capisco, è più sotto della 160 metri e capisco, non mi ascolto molto, anche di quelle spagnole, di notte mi ascolto molto di quelle onde corte, quindi è poi rimasta al Marocco, mi sentito che trasmette un 161 kHz, quella mia rischiare si chiama Radio Medi 1, un nome così già, e quella trasmette dal Marocco, e danno delle canzoni, ho visto, però la più che mi piace, non le corte, è Radio Capodistria, lì danno delle canzoni bellissime, quella trasmette da Lucchiana, in Slovenia, Roberto, riprendi. Sì, sì, Radio Capodistria è una radio storica, come storica Radio Tele Capodistria, all'epoca prima di esistere le private, la liberalizzazione delle private, qualcuno nell'Alta Italia, nella zona di confine di lì ascoltava e la ripetevano in Italia pure, c'erano dei ripetitori e ripetevano TV Capodistria, anche un periodo Copper, se c'è scritto, TV Copper, e c'era un periodo che ci prendevano, avevano ripetuto anche qua in Sardegna all'inizio, quando c'era Tele Monte Carlo che ripeteva, no, interessante, io sono sempre stato appassionato di cose particolari, il bello è ricevere cose che altri hanno difficoltà, e quello è sempre stata una mia passione, così per i satelliti eccetera eccetera, quando tiri fuori qualche segnale. No, quest'estate c'è una propagazione assurda dalla Spagna, arrivavano tutte le Palma di Mallorca, a Canarie, radio, parliamo in diretta in FM, ma coprivano le radio, molte radio, le radio di Alghero, 93 c'è radio, come cavolo si chiama, radio onde a serio, che è un discreto segnale, la copriva. A Radio Coso, con la Nostalgia, che è molto più vicino, la coprivano, perché uscivano 92.8 e talmente erano furti e coprivano quelle radio lì, ma 98.1 lo stesso coprivano quelle dell'Imara, che c'hanno un sacco di potenza. Arrivava una bomba, Radio Palma di Mallorca e Radio Barcellona, bomba. Sì, sì, QSL, sì, infatti gli ho giurito, quelle della Spagna arrivano molto molto forti, anche dal Portogallo, e dalla zona del Portogallo, e crepano quelle radio di questa zona qua che trasmettono in onde corte, anche ho visto, hanno delle potenze enormi, hanno. Poi ce n'è un'altra che trasmette la notte, mi pare dalle 10 alle 3 o alle 4 di notte, spazio orario, che è una stazione radiofonica pirata tedesca, che si chiama, mi pare, Carlton, un nome così, trasmette in banda tropicale a 5.003 qualche cosa, 5.150, mi pare una frequenza del genere, e lì danno delle canzoni tipo fasciste tedesche, mischiate anche con le canzoni italiane, tipo Faccetta Nera, musica così, insomma, e veniamo i Gilli, quel genere di canzoni antiche, robe di Oevo, insomma, e molto belline alcune, ho visto, l'altra notte hanno dato, come si dice, quella dell'epoca fascista, giovinezza, me la sono ascoltata, e capite, danno di questi generi di musiche sia tedesche sia italiane, non so se l'hai mai sentita quella, riprendi. Allora, Radio Charleston, per quanto ne so io, è una radio discreta, nel senso di grande livello, e non è una radio pirata, anche tu hai sentito qualcosa che ci abbia lo stesso nome, perché Radio Charleston è una famosa radio, esiste da tanti anni. Poi, da un po' di giorni, me l'ha fatto notare, come si chiama, Gianfranco, in 27 qua sul canale 15, arrivano questi segnali, penso che siano segnali marittimi, infatti è strano, di queste cose russe, sembra russo la lingua, non lo so, cercato di decifrare, perché il segnale arriva oltre 9, ma continuo a tutto, adesso non so se in questo momento ci sia, però di giorno, stamattina ho acceso, l'altro giorno ho acceso e c'è sempre, si sente parlare gente, anche molte volte sento una telefonata, come qualcuno sta usando un telefono, però sembrano un incrocio tra AM e SSD, per cui ho provato anche a spostarmi, è talmente stretta, è 27-135, ma è molto stretto, se vai a 136 già non lo prendi più, ed è una modulazione stranissima, riesci, non riesci bene ad individuare come, cosa stanno dicendo, eppure il segnale è abbastanza forte, sembra in banda laterale, non è in banda laterale, lo provi in AM, non è in AM, ed è una modulazione strana, non ho mai capito di cosa si tratta. Sì, sì, Marcello, sì, le avevo sentiti pure io, poi questi giorni sto ricevendo delle stazioni radio dagli Stati Uniti, no, poi su 23 canali, in Italia, sera c'erano i russi e l'altro giorno c'erano gli americani che stavano ascoltando, stavano ascoltando la radio, le stazionarie, insomma, stavano arrivando forte segnali di 9 più 20, ed erano così al Wario, così stavano parlando in lingua loro, e molto ma molto forte, ho detto, faccio un nuovo segnale, ho detto, e stasera c'erano i russi e anche donne sul dito, però non capisco quello che dicono, loro non capiscono a me, quindi non ho potuto fare nessun collegamento, anche perché non so se arrivo lì da loro, riprendi? No, no, ma sembra un segnale ripetitivo, cioè non è una cosa, un QSO, è una cosa, sembra registrata questa cosa, sembra un disturbo, non lo so, tipo quando trasli qualche frequenza, un battimento di frequenza, non lo so. Sì, sì, confermo, infatti sì, le avevo sentito a Gianfranco che lo stava dicendo, sì, dicesse, io sentiti anch'io, robe, però la verità non ho idea di cosa, possa essere, capito, perché li ho sentiti pure io su quella frequenza che mi stai dicendo tu, però la verità non so da cosa dipende e cosa possa essere, riprendi? E io, vabbè, adesso riprendo perché devo andare via, sto guardando l'orario, cazzo, sono già 8:30, dai. E grazie della chiacchierata, Claudio, saluto a tutti in casa, ci sentiamo presto, ma ci mettiamo d'accordo per quella roba che abbiamo parlato prima. Ciao ciao, cuoriti da parte mia. Sì, sì, Quercelle, anch'io, adesso dopo due passaggi volevo salutarti perché anch'io devo staccare, roba, dammi a